Che strana vita fuori dal bar, mentre bestemmi che già lunedì. E si muore un po'. E se a vent'anni ti aspetti di più, rimanda e sogna, accontentati di te. Siamo nord, nebbia non ce n'è. Un'altra volta su strade via, l'asfalto grida le ruote perché in realtà fretta non ce n'è. Sono le tre e tra un po' si lavorerà per tutto il giorno pensando che sabato sera tu rivedrai lei, quella che non conosci mai.